El 18 días de julio en el patio de un convento. El 18 días de julio en el patio de un convento. El Partido Comunista fundó el quinto regimiento. El Partido Comunista fundó el quinto regimiento. El 2 del mes de lui hinca el chosquer de un convento. El 2 del mes de lui hinca el chosquer de un convento. Compañ de la ringuera han fascenso regimento. Compañ de la ringuera a fascenso regimento. E tirasse la bandera, la nostra Spagna è già rossa, è arrivata la ringhiera, passo leggio della forza. E tirasse la bandera, la nostra Spagna è già rossa, è arrivata la ringhiera, passo leggio della forza. E aveva desotan, desotan, ma de ringhiera, desotan, ma de speranza, tutta rossa de bandera. La murusa la sigava, la diceva re stanca, e la guarda, devo andare, devi andare, allora va. La basada, ribasada, la rideva, che mago, le che pianta, la sgagnata, e la sara sul porto. E la batera, de ringhiera, di tancema, con la sua bandera bella rossa e senza crania. El 18 días de luglio en el patio de un convento. El 18 días de julio en el patio de un Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Y desde el mes de lui pinté el chosquer de un convento. Y compañ de la ringuera han fascenso regimento. Y compañ de la ringuera han fascenso regimento. El tirase la la bandera, la se chiama resistenza. Arriva il giorno della festa, arriva il 25 aprile. La ringhiera torna ca, l'amorosa del cortile. La basada, ribasada, la piaceva, la cadeva, e poi dopo la sgagnata, le scappata di Talega, e poi dopo, ma per trent'anni per 30. Jon sai siu la ringhera l'antrua che il cantava tra i matun e pien de terra. La se siu l'era andata una bomba tutta nera di fascista e lì cantava la canzone della ringhiera e in man renti in man lì tentò ste bandera e lì cantava la canzone della ringhiera. El destò del mestre lì, el techoster de un convento. El destò del mestre lì, el techoster de un convento. I compagni della ringhiera han fatto il suo regime. E tirasse la bandera, la nostra Spagna è già rossa, le arriva dalla ringhiera. Passo leggio in quella fossa e tirasse la bandera, la nostra Spagna è già rossa, le riva dalla ringhiera, passo leggio in quella fossa. Quanta gente che in piazza coi compagni della ringhiera e che anche la morusa conta il tocrus de bandera e che acqua venchi sotto ma del Brescia pur la Brescia pur la scoppia una fiammata l'amorosa, l'è morta, tutta morta, messa al fianco sante vera. E in mano, rente in mano, il tento cruce bandera, la basada, la taseva, la taseva, e allora la bardada. L'era bianca, rossa, era rosso il sangue che si squaglia nella pioggia disperata e la morte che la scagna tutto intorno mostra vita e la rabbia disarmata. Brescia piange la ringhiera torna ca, senza donna, senza il tocco che bandera è. Il 28, ma di maggio, i compagni della ringhiera han gridato su coraggio. Riprendiamo la bandiera. E mattone su mattone ha rifatto la sezione. Ogni pietra era un colpo, ma sul muso del padrone e ha rimesso i vecchi panni, quelli cari della Spagna hanno ritrovato il passo, quello duro di montagne. Cantando la canzone, la più bella, la più vera. E cantando la canzone, la più bella, la più bella, torna in marcia un'altra volta, tutta insieme alla ringhiera, torna in marcia un'altra volta, tutta insieme alla ringhiera. E tirassi la bandiera, l'Italia si farà rossa, è arrivata la ringhiera, fa sole il giorno della costa. E tirassi la bandiera, l'Italia si farà rossa, è arrivata la ringhiera, fa sole il giorno della costa. E tirassi la bandiera, e tirassi la bandiera, e tirassi la bandiera, e tirassi la bandiera. Grazie.